che sovente ragion si perde amando. Virtute unite meco, si cangi il bosco in speco. Che fra pochi momenti avrò vittoria, il eroe renderò sano alla gloria. Poi la stella, non mi torni, fa godere, mi fa godere.